Non so quanto la cosa possa interessarvi, ma personalmente sono stufo. Sono stufo ogni volta che per un motivo o per l'altro riesplode la sanguinosa polveriera del Medio Oriente di leggere sulla stampa italiana le solite insulse polemiche su chi sta con gli arabi e chi con gli ebrei. Sono stufo di leggere intere pagine, per esempio quella sul Corriere della Sera dell'altro ieri, sulla tentazione filo-araba della sinistra, con l'ennesimo intervento in merito dell'onorevole Furio Colombo o di chi per lui. Sono stufo, in altre parole, della nemmeno tanto implicita accusa di antisemitismo, sempre pronta a scattare contro chiunque abbia qualcosa da ridire sulle scelte, sulla politica dello Stato di Israele. Perché il punto è sempre questo. Per quel che mi riguarda, io che non rappresento certo l'intera sinistra di Onescampi, ma mi ostino a riconoscermi nonostante tutto nei suoi valori, io non sono mai riuscito a trovare un solo motivo per cui dovrei in generale preferire gli arabi agli ebrei, ma potrei elencarvene una fila lunghissima per cui non mi sento di approvare la politica di Israele. La contrapposizione, come la vedo io, non è tra arabi ed ebrei, ma tra palestinesi e israeliani. Tra palestinesi e governo di Israele, anzi. E da questa posizione, vi assicuro, non intendo lasciarmi smuovere da nessuno, nemmeno dal nuovo rampantissimo direttore della nuova unità. Il fatto che un certo numero di palestinesi abbiano commesso la loro parte di errori e di atrocità non mi sembra sufficiente a farmi cambiare opinione, perché, vedete, gli stessi giornali che ospitano e organizzano queste polemiche poi non possono fare a meno di impiegare espressioni come territori occupati e coloni o viandare, e dove sono in corso occupazioni e colonizzazioni, che volete che mi dica, io sto dalla parte degli occupati e dei colonizzati. Il che, permettetemi di insistere per l'ultima volta, e non significa affatto mancare di rispetto alle vittime della Shoah, sulla quale noi europei, e noi italiani più di altri europei, abbiamo delle responsabilità che non è possibile esorcizzare scaricandole sui palestinesi o su chiunque altro. Ciò premesso, qualche giorno fa, un lettore del Manifesto, intervenendo nel dibattito che anche su quelle pagine ferve in argomento, ha avuto l'idea di citare la terza novella della prima giornata del Decamerone. La conoscerete certamente anche voi. È quella in cui si racconta, per bocca della Filomena, di come il Saladino, un vecchio Saladino, cerchi di compromettere ideologicamente un suo suddito ebreo, tale Melchisedec, ricco banchiere, proponendogli l'insidiosa domanda su quale tra le tre religioni monoteistiche vada considerata la migliore. E di come Melchisedec, che scemo non era, se la cavi raccontando a sua volta la storia del padre amorevole, quello che dopo aver promesso a ciascuno dei suoi tre figli l'anello simbolo della primogenitura non sa decidere chi preferire, per cui ne fa fare due copie identiche, lascia ai figli un anello a testa, così tutti e tre saranno convinti di aver ricevuto quello autentico, ma chi se l'abbia ancora ne pende questione. Conclusione che naturalmente vale anche per le tre leggi date agli tre popoli da Dio Padre. È una bella storia, molto diffusa anche prima che la riprendesse il Boccaccio, credo che sia nel Novellino anche, è un bel esempio di come anche allora non mancassero gli spiriti illuminati che facevano professione di tolleranza. Ma è anche una storia che in questa sede non ci deve interessare, perché noi non crediamo, ripeto, non crediamo che il problema sia quello della superiorità soggettiva o oggettiva di una delle parti sull'altra, di una delle fedi sull'altra, si diceva nel Medioevo. Ma il problema è quello di trovare un modo per farle convivere tutte in pace e democrazia, il che, sospetto fortemente, non avrà luogo finché tutti gli interessati non metteranno il loro essere arabi o essere ebrei o essere qualsiasi altra cosa in secondo piano rispetto a quello che poi è l'unica cosa che conta, cioè la comune umanità. A me, vi dirò, più che la storia dei tre anelli è sempre sembrata interessante la novella cornice, quella di Melchisedec e del Saladino, perché anche il Saladino è tollerante, figuriamoci, non ha niente contro gli ebrei in quanto tali, tanto è vero che alla fine fa di Melchisedec un amico in grande e onorevole stato presso il Selman Tenne. Però cerca di fregarlo lo stesso perché per alcun accidente sopravvenuto, gli dice il Boccaccio, gli bisogna una buona quantità di denari. E allora, non volendo passare per un volgare stortore, decide di fargli una forza di alcuna ragion colorata. Onde la domanda compromettente. come a dire che il soldano d'Egitto si serve di una motivazione ideologica. Dimmi qual è la migliore religione, così io ti frego, qualsiasi cosa risponde. Si serve di una motivazione ideologica per giustificare una prevaricazione economica e ti porto via i quattrini. Il che mi sembra è quanto succede regolarmente ogni volta che si pone un problema ideologico del genere. Lo so, non è di moda, è un'affermazione che sa di marxismo volgare o di marxismo tout court, che per certa gente è peggio, ma se non ci decideremo ad ammettere che i nazionalismi, i razzismi, gli integralismi religiosi e tutti gli ismi del genere sono stati inventati per nascondere dei concreti problemi di potere e di quattrini, di quel che succede in Palestina non capiremo mai niente.